nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Bentornati a Nessuna è Perfetta, buon anno, com'è andata? Allora, l'anno è passato, ora pensiamo a quello che ci attende nei prossimi 12 mesi. Noi manterremo qualcosa di vecchio, e cioè la nostra battaglia contro il multitasking, la fregatura, più fregatura che ci hanno appioppato negli ultimi anni, pensando che ci fanno lavorare 5 volte e pretendono perfezione su 5 terreni, ma accanto alla nostra tradizionale battaglia contro il multitasking, beh, ne inauguriamo una nuova. Quale? Qual è la prossima campagna che porteremo di pari passo a quella contro il multitasking, ma quella contro il toxic worker? Allora, è difficile da pronunciare perché ci sono un sacco di X, un sacco di K. Toxic worker, che significa? Vuol dire collega invidioso, narciso, quello che come uno scorpione ha il pungiglione sempre pronto per distillare veleno e non può farci niente perché è la sua natura. Non è una nostra idea, ma uno studio approfondito pubblicato dalla Harvard Business School, secondo la quale nei posti di lavoro è fondamentale l'empatia ed è altrettanto fondamentale neutralizzare il toxic worker. Non è soltanto una questione di vivere meglio nell'ambiente di lavoro, è che calcolando i costi di risarcimenti, malattie procurate dallo stress del collega toxic worker, cattivo comportamento, insomma tutti gli elementi che produce un dipendente o un capo provvisto di queste caratteristiche negative, ecco, tutto insieme, capirete dunque perché secondo la Harvard Business School costa alle aziende $13,000 all'anno. Al contrario, assumere lavoratori leali fa guadagnare all'azienda $6,000 l'anno. Capirete dunque perché secondo la Harvard Business School nelle aziende sta proprio cambiando il criterio col quale si selezionano i capi, i dirigenti, ma anche i dipendenti. Conta l'empatia e talvolta conta l'empatia, l'intelligenza emotiva, addirittura più della estrema competenza. Allora, sono proprio curiosa di sapere cosa pensa di questa nostra nuova campagna contro i toxic workers il nostro agente provocatore della settimana, che è Alessandro Milan. Ogni mattina a Radio 24 lo sentite insieme ad Oscar Giannino con Attenti a noi due. Benvenuto, benvenuto. Grazie Maria. Ciao Alessandro. Allora, tra te e Oscar Giannino c'è una empatia, una corrispondenza di amorosi sensi, o Oscar è il meno empatico? Cerco di seminare zizzania. Ma certo, ma fai pure, ma ti pare di che si possa avere empatia con Oscar Giannino? No, scherzo ovviamente. Oscar Giannino è una persona estremamente libera, insomma può essere presa solo se alla moda del Far West ha il lazzo e la frusta. No, si scherza ovviamente, no? Con Oscar c'è amicizia, nonostante sia una persona, come tutte le persone, di carattere, con anche a volte un pessimo carattere, questo si può dire, credo che per lui sia un bel complimento. Senti Alessandro, la nostra battaglia, accanto alla campagna che continueremo a difendere con le unghie e con i denti contro il multitasking, ma ne avanziamo un'altra, ed è quella contro i toxic workers. L'Harvard Business School ha coniato questo termine per definire il collega di lavoro o il capo bravissimo ma narciso, invidioso, acido, incapace di sviluppare rapporti di lavoro rilassati. E ha anche scoperto questo studio che alle aziende questo tipo di capi o di dipendenti costa $13,000 l'anno in termini di cause di lavoro, di risarcimenti, di malattie dei colleghi stressati. Secondo te c'è un metodo per neutralizzare il toxic worker? È un metodo, non lo so se ci sia. Una cosa certo non mi stupisce, cioè che siano gli americani molto più avanti di noi su tanti campi. Io non sono per forza filo americano, però su alcune cose, per esempio nel mercato del lavoro, secondo me sono avanti anni luce anche da questo punto di vista. Cioè, capiscono quanto possa essere nocivo una persona del genere sul lavoro, dove il fare team, lavorare di squadra è fondamentale. Quale sia purtroppo il metodo, non lo so, temo che in Italia, dove c'è un rapporto di lavoro sempre un po' autoritario, cioè dal capo arrivano gli ordini, si arrivi poi alla fine a un bivio. Se questa persona è importante, viene sopportata perché nessuno ha il coraggio di dire nulla. Se questa persona è meno importante sul posto di lavoro, beh, si autoisola e viene isolata e viene emarginata. Senti Alessandro, fai una previsione di chi sarà, secondo te, sul piano, come dire, pubblico, dalla politica all'economia, il personaggio empatico dell'anno? Ci sono politici empatici, Maria, non lo so, infatti so che non si risponde alla domanda con un'altra domanda, ma io credo che debba recuperare un po' di empatia, vabbè, l'uomo a cui tutti guardiamo, Matteo Renzi, ecco, forse sì. E sempre per restare sulla proiezione, tu hai fatto un piano per te stesso per essere più empatico? Guarda, me lo faccio tutte le mattine quando mi sveglio alle 5 del mattino per venire qui. Qui in radio. Dovresti essere di pessimo umore, altro che empatia. Ma sono di pessimo umore, solo che guardo me stesso allo specchio, quindi posso essere empatico solo con me stesso. Ecco, dovrei essere un po' più empatico con me stesso, questo sì, cercare di entrare dentro il mio mood e autocapirmi un po' di più. Faccio questo, so che in genere l'empatia dovrebbe essere rivolta verso il prossimo, ma visto che la prima persona che guardo quando mi sveglio è un po' arruffata, sono me stesso alle 5 allo specchio, farò questo sforzo di autoempatizzarmi un po' di più. Allora, intanto un Alessandro Milan autoempatico, intanto continueremo ogni mattina a parteggiare comunque empatico per te e per il tuo programma. Buon anno Alessandro. Grazie, il nostro agente provocatore di questa domenica. It's snowing and the wind, it is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I cannot remember worse December. Just watch those icicles fall. Why do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. Who needs an overcoat? I'm burning with love. My heart's on fire and the flame grows higher. So I will weather the storm. Why do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I thought you ought to know my heart's on fire. The flames, they just leap higher. So I will weather the storm. Why do I care how much it'll storm? I've got my love to keep me warm.

Come spiega lo studio della Harvard Business School, appunto nelle aziende tra malattie dei colleghi stressati, cause di lavoro, risarcimenti, lo ripeto ancora una volta, ogni anno si spendono in media $13,000 per colpa di questi toxic workers. Comunque alla fine ha mandato via lui e sei rimasta tu, fantastico, alla lunga. Senti Natalia, secondo te Donald Trump e Hillary Clinton sono empatici? No, forse nessuno dei due lo è, però forse non è neanche a quel livello necessario. L'importante è non votare perché uno è simpatico, ma votare perché pensi che sappia aiutare la tua vita e aiutare il paese. Questo sì, credo. Io non voterei mai uno perché è simpatico o perché quando parla mi incanta, lo voterei secondo il suo programma, anche se mi è antipatico. Grazie alla nostra Sunday Girl di questa domenica, grazie a Natalia Aspesi e auguri. Ciao, auguri. Grazie. Is that you, Santa Claus? Gifts I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because hang in my stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? Sure is dark out, ain't the slightest spark out on my clacking jaw. Who's there? Who is it? Stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. That is just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Old winds are howling. Or could that be growling? My legs feel like straw. Yeah, my, kindly will you reply? Is that you, Santa Claus? Yes, hang in the stocking, I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? You stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Oh, there, Santa, you gave me a scare. Now stop teasing, 'cause I know you're there. We don't believe in no goblins today, but I can't explain why I'm shaking that way. Then I can see old Santa in the keyhole. I'll get to the cause. One peek and I'll try there. Oh, there's an eye there. Is that you, Santa Claus? Please, please, I pay to my knees. Say that's you, Santa Claus. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Ciò? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB+. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuno è Perfetto, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Questo è il momento della domanda della settimana. Vi ricordo che potete scrivere a nessunoeperfetta@radio24.it o anche su Twitter usando l'hashtag Nessuno è Perfetta o sulla nostra pagina Facebook. E veniamo alla domanda di questa settimana. Ho 47 anni, lavoro in una multinazionale. Mi trovo bene, decisamente bene con tutti i colleghi, eccetto che col mio capo. Ho provato in tutti i modi a farmelo andare a genio. Ho cercato di instaurare un rapporto umano, oltre che professionale, ma senza successo. Al di là delle sue capacità professionali, che tutti gli riconoscono, lui ha un modo di fare arrogante, supponente. Non tiene in considerazione nessuna delle nostre proposte, è convinto di sapere tutto lui e non riesce a entrare in vera sintonia con nessuno. Il paradosso è che la nostra azienda, almeno sulla carta, tiene molto a questi aspetti empatici. Voi che mi consigliate di fare? Sono ingenua, sono una sognatrice. Grazie, Anna. Cara Anna, non ti consiglio nulla perché abbiamo due super esperti che di questo sanno moltissimo. Tommaso Arenere, partner di Egon Zehnder, e Alessandra Losito, senior private banker di Pictet, una banca d'affari. E dunque, io comincerei proprio da Tommaso Arenere. Siamo di fronte a un tipico caso di capo, di boss, capace, molto capace, ma emotivamente, diciamo, molto represso o poco interessato a stabilire dei buoni contatti. Per tutta la puntata ho citato lo studio della Harvard Business School e quanto pesi sulle aziende avere dei capi o dei dipendenti toxic workers. Dal tuo punto di vista, come vedi, come fotografi la situazione nella quale si trova Anna? Allora Maria, innanzitutto grazie e buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano. Mi fa molto piacere questa domanda. Questa domanda porta l'attenzione su un tema che da diversi anni si discute, è il tema dell'intelligenza emotiva cosiddetta, e di un modo di essere capi, di essere leader, che ci permette di essere più efficaci. Hai proprio ragione a dire che il toxic worker è un elemento di rischio, un elemento da ridurre al minimo, ma proviamo a vederla in positivo. Che cos'è l'intelligenza emotiva in questo senso? Vuol dire guidare anche con il cuore, vuol dire guidare avendo consapevolezza delle nostre emozioni. Quindi il primo punto che porto all'attenzione di Anna, sia nei riguardi del suo capo, sia nei riguardi di se stessa, è quello di cercare di essere, la parola inglese è self-aware, consapevole delle proprie emozioni, consapevole delle proprie emozioni. Alla fine le emozioni umane non sono infinite, ci sono alcune emozioni principali, l'amore, ma anche l'odio, l'ira, ma anche l'ansia, la gelosia. Sono emozioni che tutti proviamo, non hanno nulla di male. L'importante è accorgerci quando le proviamo e reagire di conseguenza. Quindi il mio spunto che metto sul tavolo della riflessione comune è quello di cercare di portare avanti una leadership sempre più consapevole delle proprie emozioni. Questo è quello che ci può salvare e può funzionare assai bene, perché quando questo funziona bene si lavora più volentieri, si produce di più, si ha una serie di vantaggi innegabili, ma ne parleremo se ci sarà bisogno. Alessandra Losito, Alexa von Toppel, che è una chief executive di un'importante azienda, in un'intervista al New York Times ha detto: non mi piace dare brutte notizie alle persone, sono una persona positiva che crede negli altri, non voglio essere quella che, siccome è un capo, deve per forza avere la migliore delle idee. Tutto bello, tutto teoricamente affascinante, ma nella realtà, come vediamo anche dalla lettera di Anna, i capi, perché sono capi, hanno quasi sempre ragione. Sì, buongiorno Maria, grazie di essere stata invitata per questa domanda impegnativa. Parlando appunto sull'argomento, io credo che, come ha scritto brillantemente Adam Grant nel suo libro Give and Take, oltre al talento, l'impegno e la fortuna nel mondo del lavoro, nelle nostre professioni, c'è bisogno di un quarto fattore, che è la capacità di interagire con gli altri. E nella capacità di interagire con gli altri, io penso che uno dei mantra, dei motto di cui dobbiamo ascoltare e ricordarci tutti i giorni è quello di guardare il meglio in ogni persona, e guardando il meglio in ogni persona, i nostri colleghi, nei nostri clienti, nei nostri capi, le persone poi danno il meglio di sé. Quindi io credo che sono d'accordo con Tommaso nel focalizzare dalla negatività all'aspetto invece positivo e di capacità di ispirare gli altri. Quindi essere consapevoli, come si diceva, delle proprie emozioni. Tornando allo studio del Harvard Business School, mi sembra di poter dire, Tommaso Arenare, che sempre più le aziende, quando valutano un capo o quando devono fare un'assunzione, stanno bene attenti anche all'aspetto empatico, non guardano più soltanto alla competenza. Tant'è vero che, cito sempre lo studio del Harvard Business School, qualcuno comincia a dire che è meglio assumere persone meno sicure di sé, ma empatiche. È vero, è così, c'è un cambiamento, stiamo assistendo a un cambiamento nella selezione delle persone? Assolutamente sì, è un cambiamento che dal mio punto di vista privilegiatissimo osservo da tempo, ho la fortuna di osservare da tempo, dico per chi ci ascolta che potrebbe non saperlo, l'azienda della quale ho la fortuna di essere socio è una grande azienda svizzera. Egon Zehnder, sì. Egon Zehnder, che di mestiere sceglie le persone in tutto il mondo, no? Sceglie le persone. Allora, intanto, come diceva Alessandra, il tema dell'intelligenza emotiva non è nuovo nel mondo, sta diventando importante anche in Italia e questo lo celebriamo. Io voglio solo ricordare che quello che si considera un po' il padre dell'intelligenza emotiva, si chiama Daniel Goleman, scrisse un libro nel 98 che si chiama Working with Emotional Intelligence, in italiano è stato tradotto intelligenza emotiva al lavoro, e si enfatizzano proprio gli elementi che Maria stavi indicando: scegliere persone capaci di lavorare bene insieme, persone capaci di condividere e di collaborare. Nel nostro caso specifico noi abbiamo evidenza che gli errori di assunzione o gli errori nella scelta dei capi sono quasi sempre, potrei dire sempre, ma diciamo quasi sempre, legati a carenza di intelligenza emotiva e non di competenza tecnica. E ho anche diciamo l'orgoglio in un certo senso di ricordare che il libro di Goleman del 98 ha un intero capitolo dedicato a una struttura egualitaria di partnership, che è quella della nostra azienda. Noi lo viviamo quotidianamente, siamo tutti quindi colleghi uguali. Il tipo alla Gordon Gekko, capito? Quel protagonista di Wall Street che è rimasto nella nostra memoria nella fantastica interpretazione di Michael Douglas, l'uomo arrogante che dice greedy is good, oggi nelle aziende non è più tanto di moda? Io vorrei dirti semplicemente che non è più di moda, preferisco invece dirti che c'è sempre un equilibrio difficile da raggiungere nei cambiamenti importanti e il cambiamento verso l'intelligenza emotiva non è ancora una battaglia completamente vinta. È chiaro che esiste ed è chiaro che è il futuro, il successo delle aziende sarà collegato a questo, ma Maria, molto semplicemente un modo di guardare a questo è: laddove si lavora tanto, laddove si fanno molte cose, tu alla fine con chi ti vuoi trovare a lavorare quando sei arrivato a tarda sera dopo una giornata faticosa, con colleghi coi quali stai bene, coi quali sai condividere. Non c'è dubbio. Ecco, una banalità, ma a favore della argomentazione sull'intelligenza emotiva. Alessandra Lossito, in una grande banca d'affari come Pictet, la responsabilità è una chiave fondamentale. Conta l'essere responsabili anche per un capo. Anna dice che tutti i tentativi che ha fatto di entrare in contatto umano col suo capo sono falliti. Forse in lui manca l'intelligenza emotiva, ma manca anche il senso di farsi carico, diciamo, del benessere, no? Dei propri dipendenti. Sì, io credo che la nuova leadership si basi essenzialmente sulla capacità di ispirare con l'esempio. Quindi la responsabilità del leader è legata anche alla capacità di guidare gli altri verso obiettivi di business, verso risultati, verso crescita, che sono ovviamente tutti obiettivi di ogni azienda che vuole competere sul mercato, ma con l'esempio. E vorrei aggiungere anche un'altra cosa, il mondo diventa più complesso in tutti i settori dell'economia e quanto più il mondo diventa complesso, tanto più le persone hanno la necessità di instaurare dei rapporti di fiducia, e per cui l'empatia, che è essenzialmente anche la capacità di vedere il mondo con gli occhi dell'altro, di interpretare i bisogni di un'altra persona, è alla base anche della capacità poi di ispirare fiducia e di coltivare dei rapporti di fiducia all'interno delle organizzazioni. È questo proprio la chiave, in un contesto difficile e complesso dove le insicurezze sono tante, se viene meno la fiducia anche nel rapporto di lavoro, nel mondo in cui uno passa tante ore della propria vita, beh, insomma, si rischia davvero il burnout, si rischia davvero di andare in tilt. Io intanto auguro buon anno a Tommaso Arenare e ad Alessandra Lossito, Tommaso Arenare di Egon Zehnder e Alessandra Lossito di Banca Pictet, che sono stati gli esperti di questa nostra domenica. Grazie e molti auguri. Grazie. nessuna è perfetta. Ecco, i nostri consigli non finiscono qui. Ad Anna, che ci ha scritto, diamo anche il punto di vista della nostra coach. Questa settimana Carla Ciani è con noi. Buona domenica, Carla. Auguri Buona per domenica. Il nuovo anno. Che cosa fare Grazie, se ti capita un collega o un capo, come è successo ad Anna, che è un toxic worker, è negativo, invidioso, convinto di avere la verità in tasca? Allora, prima di tutto bisogna riconoscere la tipologia del suo comportamento e possiamo identificarne tre di modelli. Allora, diciamo che potrebbe essere uno stratega, oppure in malafede, oppure un rancoroso. Gli strateghi di solito sono coloro che cercano solo un beneficio individuale, egocentrico. Quelli in malafede sono coloro che hanno una volontà distruttiva, per intenderci quelli della sindrome del non va mai bene niente. Lo scorpione, per capirci, sì. Col pungiglione avvelenato. Col pungiglione, sì, e il rancoroso è quello che ha invece subito una delusione e che è lì per far pagare il conto più o meno a tutti. E il rancoroso demolisce la stima degli altri, verso l'azienda, le persone, i progetti, eccetera. Quindi una volta riconosciuti questi tre modelli, potremmo dire che se comprendiamo che è uno stratega, come possiamo comprendere che è uno stratega? In realtà lo stratega intanto utilizza moltissimo la comunicazione informale e verbale. Nella comunicazione scritta, nelle mail per esempio, tende a inserire molti contenuti, a essere molto ampio e non così ben interpretabile, poi magari è quello che gira per conoscenza l'ultima risposta, no? L'esito finale di una comunicazione. Questo è un grandissimo problema. Per mettere in difficoltà l'interlocutore. Per mettere in difficoltà l'interlocutore e per costringere magari tutti gli interlocutori che ha interpellato a rivedere una lunghissima storia dove non capiranno quasi niente, ma alla fine daranno retta solo alla frase del povero ultimo mai capitato. Il secondo tipo invece? Il secondo tipo è invece quello che utilizza la confidenzialità. Ricordami la definizione, che me la sono già scordata. È in malafede. Il secondo è in malafede. Quindi è una persona che apparentemente è molto disponibile, soprattutto nella fase iniziale della conoscenza, rivela magari anche le sue criticità, i suoi limiti, le sue insoddisfazioni, ma per avere in cambio tutta una serie di informazioni che si permette di usare in contesti anche pubblici, quindi magari una confidenza di un collega diventa poi oggetto un'arma, di una, sì, in una riunione piuttosto che in il una, terzo tipo è il rancoroso. Il rancoroso, quello che si sente in qualche modo non... Sì, ma l'abbiamo spiegato il tipo, il rancoroso. Sì, sì. Rispetto a questi tre tipi e concentrandoci sui primi due, perché di solito il rancoroso poi non diventa capo, ma dovendo dare un consiglio ad Anna, che cosa fare rispetto a questi due? Se posso, il rancoroso è il capo che se ne sta andando magari, ecco, ed è un grande problema, nel senso che proprio perché sta facendo una scelta personale e magari sente anche un po' di colpa, usa un po' la tecnica della non andava nulla bene, no, in questa azienda, e quindi diventa così un demolitore della, certo, della motivazione. E rispetto ai primi due invece che tattica usare? Allora, lo stratega bisogna prima di tutto responsabilizzarlo, quindi ogni volta che ci comunica qualcosa di informale facciamo seguire una bella comunicazione scritta, magari dicendo: se ho capito bene mi volevi dire ABC. Bisogna coinvolgerlo in attività molto schematiche, quindi se c'è un progetto da realizzare deve esserci una buona organizzazione. Bisogna essere molto coesi nel gruppo di lavoro. e quindi avere una comunicazione univoca nei suoi confronti. Perché se no ti usa uno contro l'altro. E invece... Perché la sua tecnica è il divide ed impera. Certo. Il secondo tipo invece, lo scorpione dal pungiglione velenoso, che tattica può usare Anna nei suoi confronti se il suo capo appartiene a questa seconda categoria e siamo in chiusura? Limitare assolutamente la confidenzialità, non fare commenti sulle sue affermazioni e qui la cosa più importante è che la nostra ascoltatrice abbia dei riferimenti interni all'azienda ai quali possa comunicare questo suo disagio. Le aziende oggi sono davvero molto attente anche per la conservazione della loro immagine. Certo, perché l'abbiamo detto, tra l'altro, alle aziende questi toxic workers costano in termini economici. Ma non costano solo in termini economici all'interno dell'azienda, ma costano tantissimo all'esterno. Proviamo a immaginare in una relazione con un cliente quando il soggetto in malafede trasmette una non convinzione al cliente. Abbiamo per esempio delle problematiche tipiche. L'ambito commerciale è molto propositivo, ovviamente, nei confronti del cliente. Certo. È molto relazionale, oggi si lavora... E quindi è esattamente il contrario, l'azione del toxic worker è negativissima. È negativa. Perfetto, appunto. Io devo forzatamente fermarmi qui, sarei ore a sentire la nostra Carla Ciani, ma piace, abbiamo poco tempo, i minuti davvero. Si sono accavallati. Grazie, perché questi sono, secondo me, utilissimi consigli per Anna e per tanti che si trovino nella... Ci ritorneremo quando vorrai. Molto ci volentieri. Torniamo, perché temo che il tema del toxic worker sarà una delle nostre campagne, insieme a quella che non smettiamo affatto contro la mistica del multitasking. Intanto grazie alla nostra coach Carla Ciani e a tutti coloro che ci hanno seguito in questa puntata. Altrettanto, grazie. Grazie a tutti. The snow makes teardrops on my window. The wind blows memories through my time I need you most of all. The gay ones don their silly paper hats and blow their stupid little horns. At midnight they will all be sad ones sit alone before the fire and sip a glass of lonely wine. I wish you within.